Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Innanzitutto consiglierei a Renzi di stare attento con Popcorn, perché lo vedo un po' sovrappeso. Così dice Massimo D'Alema, il presunto rottamato rispetto al rottamatore. Insomma, ve lo spiego perché oggi ha detto questa cosa a Radio Città Futura. Sentiamo. Comprerò il popcorn per assistere all'epico scontro D'Alema-Fioroni sul ruolo dei cattolici dentro la sinistra europea. E parlava ieri Renzi in direzione, nel senso di prendere in giro un po' la vecchia ideologia, parlando poi della decisione di far parte del PSE, del Partito Socialista Europeo. Ma i problemi, diciamo, del PD e soprattutto del governo Renzi non sono quelli legati al popcorn o una certa pancetta, ma sono quelli della disoccupazione enorme, allucinante, ha detto oggi, sentendo i dati Istat, ha detto così Renzi. E quindi questa sera, se non avessi impegni improvvisi, dovremmo avere il responsabile economico del PD, che è Filippo Taddei, e ci dirà come Renzi e il suo governo intendono affrontare questo problema gravissimo della disoccupazione, oggi proprio altri livelli record. Su questo argomento, se avete delle domande, se volete fare le vostre affermazioni, esprimere le vostre opinioni, c'è sempre, lo sapete, la pagina Facebook di Effetto Notte, Effetto Notte trattino Roberta Giordano, oppure messaggi, però sui messaggi siete sintetici e chiari, SMS al 349-238-6666. E poi, a parte, diciamo, questi momenti così di colore, vi racconto la giornata. Notizia che è arrivata ora: da 8 anni segregata in casa dalla madre, è una notizia di cronaca, donna di 36 anni liberata dalla polizia. Questo è successo a Napoli, nella zona Vomero. E poi notizia che questa, che sta uscendo un flash in questo istante: Kiev, la capitale ucraina, 2000 soldati aerei russi hanno invaso la Crimea. Qui quindi si mette veramente molto molto preoccupante la situazione. E poi, per quanto riguarda le questioni italiane, tante novità dal Consiglio dei Ministri di oggi: arriva la supertasi, via libera al decreto salva Roma, rimossa la web tax. Governo, si completa la squadra dell'esecutivo, 44 sottosegretari di cui 9 viceministri. All'economia, Casero e Morando. Disoccupazione: nei dati dell'Istat sale la disoccupazione al 19,9%, 1 milione di occupati in meno dal 2008, dato drammatico sui giovani, senza lavoro il 42,4%, al sud ancora peggio. Per l'Ucraina lo avete sentito, niente vacanze poi invece nel Mar Rosso, questo è il consiglio della Farnesina, anzi sconsiglia decisamente viaggi in Egitto. E quindi partiamo dalla iperattività del Consiglio dei Ministri di oggi, che ha partorito vari provvedimenti: il Salva Roma, la TASI, la proroga per 24.000 addetti alle pulizie nelle scuole. Insomma, è stata una riunione molto proficua in cui sono anche stati nominati 44 sottosegretari, di cui 9 viceministri. Dopo il botta e risposta polemico fra Palazzo Chigi e Campidoglio, arriva il via libera al nuovo decreto salva Roma. Si sbloccano così le risorse per evitare il dissesto finanziario della capitale. Non ci saranno trasferimenti da parte dello Stato. La somma destinata a Roma, 570 milioni, resta la stessa, ma sarà anticipata invece che essere diluita nel corso degli anni, fa sapere il sottosegretario Delrio, che aggiunge: ovviamente, accompagnato a questo, vi sono la urgenza, necessità e obbligo di avere piani di rientro finanziari, piani di risanamento finanziari, piani di aumento delle entrate da parte del Comune di Roma. Da Palazzo Chigi arriva anche il via libera alla maggiorazione della TASI fino allo 0,8 per mille e quello alla proroga fino alla fine di marzo della sanatoria per pagare le cartelle di Equitalia senza multe e interessi. Cancellata invece la web tax, ne riparleremo in un quadro di normativa europea, annuncia Renzi via Twitter. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E dicevamo che il Consiglio dei Ministri ha anche completato la squadra di Renzi, 62 tra ministri, viceministri in realtà e sottosegretari. Una squadra non snella, con qualche imbarazzo. Matteo Renzi completa il governo, nomina 35 sottosegretari, 9 viceministri, in tutto 62 componenti, uno in meno rispetto al tetto massimo di 63 fissato dalla finanziaria 2008. Stato. Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Luca Lotti, delega all'editoria, e Marco Minniti, riconfermato ai servizi. Una vera squadra all'economia con due vice ministri, Enrico Morando, PD, Luigi Casero, nuovo centrodestra. Sottosegretari Baretta, Legnini, Zanetti. Desta perplessità la nomina vice ministro di Enrico Costa alla giustizia, nuovo centrodestra, ma già Falco PDL in commissione alla Camera e relatore del Lodo Alfano, lo scudo per le più alte cariche dello Stato. Imbarazzo invece per il neo sottosegretario alle infrastrutture Antonio Gentile, nuovo centrodestra, uomo di Angelino Alfano in Calabria, toccato da un'inchiesta sulla sanità calabrese, accusato di aver fatto pressioni per censurare il giornale L'Ora. Alla cultura malumori per Francesca Barracciu, prima candidata, poi ritiratasi alle regionali in Sardegna perché coinvolta nello scandalo sui rimborsi gonfiati. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E da domani sarà anche più facile curarsi all'estero, con il via libera del Consiglio dei Ministri al decreto legislativo di recepimento delle direttive dell'Unione Europea sulle cure transfrontaliere. Scatta una specie di Schengen sanitaria, il trattato di Schengen per la libera circolazione delle persone, c'è anche quindi questa Schengen sanitaria che permetterà ai cittadini comunitari di spostarsi oltre confine per curarsi. Il testo varato mette in piedi un'articolata architettura basata su autorizzazioni preventive, tariffe e rimborsi. Ma il governo deve fare intanto i conti anche con i dati sempre più pesanti arrivati oggi sul fronte dell'occupazione. Primo atto sarà il Job Act, ha garantito il primo ministro Renzi e il ministro del Lavoro Poletti. È il dato peggiore dal 1977, cioè dall'inizio delle rilevazioni trimestrali dell'Istat. 12,9% il tasso dei senza lavoro a gennaio, in rialzo di 0,2 punti percentuali su dicembre e di 1,1 su base annua, 12,9 contro il 12 europeo. In Italia c'è un esercito di 3.300.000 persone senza lavoro, l'1% in più su base annua secondo le stime dell'Istat, e come sempre più colpiti sono i giovani, tra i 15 e 24 anni, quasi uno su due senza impiego, in Europa uno su quattro, i giovani e il sud. È infatti nelle regioni meridionali che si registra la maggiore perdita di posti di lavoro, con il 4,6% di disoccupati in più contro l'1,1 del nord e l'1,5 del centro. Tra fabbriche che chiudono e altre che delocalizzano, negli ultimi 5 anni quasi 1 milione di posti di lavoro sono stati bruciati, di cui la metà solo nel 2013, il peggiore anno dall'inizio della crisi. E in generale l'Italia è tra tutti i paesi europei quello ad aver avuto l'aumento più consistente della disoccupazione mensile, insieme a Malta, dove però il tasso è più basso, 6,9%, mentre in termini assoluti è la Spagna il fanalino di coda dell'Europa con il 25,8% dei senza lavoro. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Frena intanto l'inflazione. Per febbraio l'Istat comunica un calo dello 0,1% rispetto al mese precedente, si attesta invece allo 0,5% l'incremento su base annua, in decelerazione rispetto al più 0,7% registrato a gennaio. E scattano a mezzanotte gli aumenti delle accise sui carburanti sulla base delle decisioni prese dal governo Letta nell'estate del 2013. Questo, benzina più cara di 0,24 centesimi al litro e gasolio di 0,34. E si accendono i fari europei sulla recente rivalutazione delle quote detenute dagli istituti di credito italiani in Banca Italia. La Commissione europea vuole vederci chiaro. Dietro il decreto Banca Italia ci potrebbe essere l'ombra di aiuti di Stato. Una lettera della Commissione europea, partita pochi giorni fa, rischia di essere dirompente. La Commissione vuole capire dal Tesoro se dietro la rivalutazione delle quote di Banca d'Italia non ci siano appunto aiuti di Stato agli istituti. Tutto è partito da un ricorso di un eurodeputato che militava nell'Italia dei Valori, Niccolò Rinaldi, sulla rivalutazione del capitale della Banca d'Italia da 300 milioni di lire a 7,5 miliardi di euro. Viene proibito a qualsiasi azionista di detenere più del 3%, per cui per quegli istituti che sono sopra la soglia si prospetta una plusvalenza dalla vendita delle quote in eccesso, e qui si annidano i sospetti. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso riandiamo alla notizia che era stata data poco fa come flash dalle agenzie, e sale fortissima la tensione in Ucraina, perché si parlava di 2.000 soldati russi che hanno invaso la regione filorussa dell'Ucraina, che è la Crimea. Vi faccio sentire giusto uno stralcio della conferenza stampa che ha tenuto oggi l'ex presidente ucraino Yanukovych, che non si arrende. немедленное начало и завершение в сентябре 2014 года конституционной Determinato, insomma, Sergio Nava, qui la situazione diventa sempre più allarmante, Sergio. Buonasera Roberta, buonasera agli ascoltatori. In effetti le notizie degli ultimi minuti lasciano temere veramente il peggio. Sarebbe in atto una vera e propria provocazione, qualcuno dice già invasione russa nella penisola della Crimea. In realtà il presidente ad interim ucraino Turchinov parla di provocazioni russe e racconta che lo spazio aereo ucraino è stato violato da aerei militari russi nelle ultime ore, ma la notizia appunto proprio degli ultimi minuti è che circa 2000 paracadutisti sarebbero atterrati a Gvardiskij, aeroporto militare nei pressi della capitale della Crimea, Simferopoli. Parliamo di 13 aerei militari che avrebbero appunto sganciato questi 2000 soldati, si parla appunto di truppe russe che avrebbero di fatto, sarebbero entrate in Crimea. Ricordiamo che già nella giornata di oggi militari senza segni distintivi sulle divise avevano preso possesso di 2 aeroporti in Crimea, a Sebastopoli e a Simferopoli, e quindi è diciamo da tutta la giornata che ci sono c'è nata una vera e propria provocazione da parte della Russia, questo è evidente, questo l'ha denunciato anche il presidente ad interim ucraino, e il tutto si colloca anche nella giornata, come hai fatto sentire tu poco fa, in cui l'ex presidente ucraino Yanukovych ha tenuto questa conferenza stampa in cui sostanzialmente ha detto che continuerà a lottare per tornare alla presidenza ucraina. Quindi avvenimenti in corso in questi minuti, anche perché proprio alle 21 si riuniva il Consiglio di Sicurezza dell'ONU, è veramente un qualcosa in divenire e tutti i segnali fanno purtroppo temere il peggio. Staremo a vedere, grazie Sergio Nava. Intanto la Farnesina sconsiglia viaggi in Sinai, comprese le località turistiche di Sharm el-Sheikh, Taba, Daba. La misura è legata alle minacce terroristiche e al progressivo deterioramento della sicurezza nel paese, quindi sono sconsigliati anche i viaggi non turistici in Egitto, sulla costa continentale del Mar Rosso, con la Mediterranea. Stessa decisione ha preso oggi la Germania, ha fatto di più l'Olanda consigliando il rientro addirittura dei turisti che sono nei resort egiziani di Sharm el-Sheikh. E poi una nuova apertura del Papa, che nella messa di questa mattina a Santa Marta a Roma è tornato sul delicato tema dei divorziati e risposati, ha detto: non bisogna condannare quanti sperimentano il fallimento del proprio amore. Il pontefice, che nel pomeriggio ha annullato la visita al seminario romano maggiore a causa di una lieve indisposizione, poi c'è stato il portavoce Federico Lombardi del Vaticano che ha detto che si tratta di qualche linea di febbre. Per la cronaca, lo avete sentito, cosa è successo a Napoli: è stata scoperta e liberata dagli agenti nel quartiere Vomero una donna che era stata segregata da 8 anni dalla madre, una donna di 36 anni. E poi invece per quanto riguarda Roma, i cadaveri di 2 anziani coniugi sono stati trovati nell'interno di un appartamento a Morena, la periferia di Roma. La donna era in terra morta soffocata con un cuscino, mentre il corpo di suo marito aveva la testa dilaniata da un proiettile di un fucile. Per gli investigatori è molto probabile che si tratti di un omicidio suicidio. Per chiudere il calcio, in Serie A è la vigilia del 26esimo turno, si parte subito con il match Roma-Inter in programma alle 20:45 con le due curve e i distinti sud chiusi dal giudice sportivo. La partita arriva dopo una settimana di violente polemiche arbitrali, come sa benissimo Garcia, allenatore della Roma. Non è solo il caso dell'Inter, ho letto e ho sentito questa settimana tante cose, no? Che sul caso arbitrale, ma come ho sentito tante cose e ho letto tante cose, penso che non c'è niente da aggiungere, soprattutto perché tutta la settimana abbiamo sentito questa cosa delle curve, questa cosa degli arbitri, ma io quello che spero è che nel futuro si parlerà molto di più del gioco, dei giocatori, dei grandi giocatori, della tattica, del modulo di gioco, più del campo. Bene, abbiamo sentito anche questa opinione. Adesso le vostre opinioni, se volete, sui vari approfondimenti adesso qui a Effetto Notte, a partire anche dalle questioni della disoccupazione, se volete fare poi delle domande per Filippo Taddei, che ci sarà più tardi. Vedo già qualcuno che invece sul Salva Roma, sulla Tasi, fa delle domande o esprime delle opinioni attraverso i messaggi al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Per esempio, Dice Sebastiano da Bassano: non ci vuole un genio per rilanciare l'economia nazionale, tagli l'IVA e il cuneo fiscale. Sarebbero già delle buone cose, già le ha annunciate almeno per il cuneo fiscale. Renzi, non credo che bastino completamente, insomma, a rilanciare l'economia, già potrebbero essere un piccolo aiuto. Viabilità tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Sto per salutare il primo ospite di questa sera, ma vi ricordo in breve quali sono stati i temi principali della giornata. Ucraina, Kiev accusa la Russia, 2000 soldati russi hanno invaso la penisola della Crimea. E poi tante novità dal Consiglio dei Ministri italiano, arriva la Supertasi, via libera al decreto Salva Roma, rimossa la web tax. Il governo si completa, la squadra dell'esecutivo, 44 sottosegretari, di cui 9 viceministri, all'economia Casero e Morando. Ucraina, l'abbiamo detto, e poi invece per quanto riguarda la cronaca, da 8 anni segregata in casa dalla madre, è stata liberata una donna di 36 anni dalla polizia a Napoli, nel quartiere Vomero. Niente vacanze nel Mar Rosso, la Farnesina sconsiglia viaggi in Egitto. Quindi il vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Chicco Padula, sa che niente Sharm el Sheikh per prossimi tempi. Salvatore. Pronto? Scusa, non ti ho sentita, ecco, no. Sono qui, ma... Pronto? Ti sconsigliavo di andare a Sharm el Sheikh, così dice la Farnesina, quindi nel caso tu avessi intenzione, certo, di allontanarti per le tue vacanze. Assolutamente, mi tengono qui, non c'è pericolo. Anche perché, Salvatore, tu ci devi spiegare una serie di cose, adesso io te ne lancerò un po'. Cioè, intanto c'è stata questa proficua, questo proficuo Consiglio dei Ministri oggi che ha varato varie cose, no? Il Salva Roma, ieri c'è stato questo screzio tra il sindaco di Roma Marino e Renzi. Marino aveva minacciato di bloccare tutta la città se non fosse passato questo decreto Salva Roma. Renzi si è un po' arrabbiato, gli ha telefonato, ha detto: i toni sono sbagliati, non niente piagnistei, adesso vediamo come fare. Oggi è passato. In realtà lui l'ha voluto chiamare il decreto sugli enti locali, perché forse a qualcuno sta antipatico il fatto che sia una cosa così dedicata a Roma questa. Ma sì, diciamo in parte per quello, ma in parte anche perché effettivamente, diciamo, più che un decreto Salva Roma, il governo oggi ha varato un provvedimento, diciamo quasi un salva comuni, cioè un decreto che riguarda certamente Roma, che sta affrontando questo problema enorme del rischio default, e oggi sono, diciamo, arriveranno nei prossimi giorni queste risorse per 570 milioni che vanno, diciamo, a mettere in sicurezza i conti del Comune di Roma. Arrivano attraverso un piano di anticipazioni di fondi che il Comune avrebbe comunque preso, diciamo, nei prossimi anni, che vengono ora appunto dati subito, anticipati. In cambio però, diciamo, il governo chiede a Roma un piano di sacrifici molto più severo per rimettere in ordine i propri conti, quindi chiede a Roma un piano triennale di rientro, una stretta sulle spese del comune e anche maggiore attenzione sulle tante partecipate, le aziende, società partecipate che sono controllate interamente dal Comune di Roma. Insieme a queste misure, il decreto di oggi, però, come accennavo, contiene anche alcune cose molto tecniche, però insomma che consentono anche di dare un po' di ossigeno ad altre amministrazioni, tra cui insomma tanti comuni, penso ad Alessandria, penso a Reggio Calabria, in difficoltà, in grossa difficoltà. Sentiamo direttamente il sottosegretario Del Rio che cosa ha detto a proposito del Salva Roma oggi. La questione di Roma è stata riproposta in una maniera differente, sostanzialmente la somma trasferita tra il commissario e il Comune di Roma rimane la stessa. Le modalità però sono messe in maniera differente, tanto non è un trasferimento dello Stato, non c'è un trasferimento di soldi dello Stato al Comune di Roma, sono semplicemente somme dovute del commissario al Comune di Roma che vengono anticipate, invece che essere diluite nel corso degli anni, vengono anticipate in maniera da creare massa critica per i problemi finanziari che voi sapete. Ovviamente accompagnato a questo vi sono la urgenza, necessità e obbligo di avere piani di rientro finanziari, piani di risanamento finanziari, piani di aumento delle entrate da parte del Comune di Roma, come già il Senato o la Camera, non ricordo bene, aveva stabilito in un emendamento approvato a larghissima maggioranza. Quindi De Rio ha confermato, cioè dopo che tu hai parlato, ha confermato quello che hai detto. Non ho sbagliato. Salvatore Padura. Senti, però chiariamo questa cosa che in parte ha chiarito anche De Rio, l'abbiamo sentito adesso. C'è fra i vari messaggi, dice questo ascoltatore, Nicola, ancora non ho capito, ma la TASI, che poi dopo ci andiamo anche sulla TASI, sempre dentro il Consiglio dei Ministri è stata varata questa super TASI, è stata ritoccata per salvare Roma o è un caso la simultaneità? E poi, aspetta, Salvatore, proprio oggi il sindaco Marino ha detto Roma con questo provvedimento non riceve un euro dalle tasse degli italiani, erano soldi che vengono dalle tasche dei romani e che avevano il diritto di vederli restituiti. In realtà Del Rio ha detto erano soldi che man mano negli anni dovevano arrivare, li concentriamo quasi tutti adesso. Sì, esattamente, quindi qui direi che vale la risposta data da Del Rio. Sulla prima domanda c'è una coincidenza tra l'approvazione di questo provvedimento che consentirà ai comuni di aumentare le aliquote della TASI e l'approvazione del decreto Salva Roma, ma non c'è nessuna corrispondenza tra le due cose, cioè assolutamente i fondi della TASI non andranno al comune di Roma, anzi i fondi della TASI andranno a finanziare gli sconti, le detrazioni che i sindaci dovranno decidere sulla prima casa per evitare che la TASI, la nuova TASI, sia diventi più elevata della vecchia IMU. Scusa Salvatore, però visto che ci eravamo un pochino disabituati nelle ultime settimane, no? Con delle varie IMU, ICI, sì. TASI, TARSU, sì. E quindi ci eravamo quasi dimenticati, come un incubo che era un po' evaporato, invece è ritornata questa TASI, spieghiamo bene di cosa si tratta e cosa consiste. Certo. Allora, per il 2014 è nata una nuova imposta che si chiama IUC, imposta unica comunale. Sì. Ecco, esattamente. In realtà questa imposta IUC ha tre componenti, una è la vecchia IMU, un'altra è la TASI, cioè la tassa sui servizi indivisibili dei comuni. Tipo il trasporto pubblico, illuminazione delle strade, queste cose qua. Diciamo più l'illuminazione delle strade, i servizi di anagrafe, il trasporto pubblico non è indivisibile ma viene pagato a tariffa. No? Però ci sono altri servizi che i comuni fanno che si chiamano indivisibili perché riguardano la collettività dei cittadini. E quindi dicevo la TASI e poi la TASI, che invece è la componente per il servizio di igiene ambientale, raccolta rifiuti, eccetera. Nel 2014 le prime abitazioni, la prima casa, non pagheranno l'IMU, ma pagheranno quest'altra imposta che si chiama TASI, mentre tutti gli altri immobili, e ovviamente la tariffa sui rifiuti, quindi e TASI e TARI, tutti gli altri immobili, le seconde case libere, quelle affittate, i negozi, gli immobili delle imprese, gli immobili strumentali delle imprese, le pagheranno invece tutte e tre, pagheranno l'IMU, pagheranno la TASI e pagheranno la TARI. Il governo oggi ha consentito ai sindaci di aumentare l'aliquota, il prelievo sulla componente TASI, sia per la prima casa sia per gli altri immobili. E già sono sul piede di guerra, scusami Salvatore Padura, sono i consumatori, Federconsumatori e Abusdef hanno detto oggi col via libera dal CDM l'aumento dell'aliquota TASI da parte dei comuni eccetera eccetera, si prospetta una vera e propria stangata per le famiglie, affermano Federconsumatori e Abusdef. Secondo le prime stime dell'Osservatorio Nazionale Federconsumatori, al netto delle detrazioni una famiglia si troverà a pagare mediamente da 247 euro a 326 euro. Ecco, io non voglio contraddire questi calcoli perché non li ho visti, ancora noi non lo sappiamo perché ogni comune potrà decidere come distribuire questo aumento che è stato concesso, previsto oggi, quindi alcuni comuni potranno scegliere di tassare di più le prime case, altri comuni potranno scegliere di tassare di più invece le case sfitte piuttosto che i negozi, piuttosto di certo di più si pagherà perché queste risorse aggiuntive che deriveranno dall'aumento delle aliquote serviranno ai comuni stessi per evitare che le famiglie famiglie, immagino le famiglie meno abbienti, quelle a reddito più basso, paghino quest'anno un'imposta TASI più alta di quella che avevano pagato nel 2012 con, diciamo, l'IMU di Monti, tanto per capirci, quella che era stata, insomma, molto pesante. È chiaro che ovviamente se si alzano le aliquote gli incassi per i comuni aumenteranno, quindi qualcuno pagherà di più. Ancora non sappiamo benissimo, e in questo momento è impossibile stabilirlo perché dipenderà appunto dalle scelte di ogni sindaco, se a pagare di più saranno le prime case, le seconde, o se saranno gli immobili strumentali. Però, a discrezione. Insomma, a discrezione, ma personalmente la mia personalissima valutazione è che i sindaci tenderanno a non appesantire il prelievo sulla prima casa e tenderanno a trasferire questa, diciamo, questi aumenti solamente sulle seconde case, sia quelle sfitte sia quelle affittate, e sugli immobili strumentali. Salvatore, abbiamo ancora un minuto, ci spieghi cos'è questa delega fiscale di cui si parla in questi giorni? Sì, la delega fiscale è un provvedimento, una legge approvata ieri definitivamente dalla Camera, che consente al governo di approvare tutta una lunga serie di provvedimenti di attuazione, di decreti legislativi di attuazione, per tentare, cercare con l'obiettivo di riordinare alcune parti del sistema fiscale. Fra queste parti direi che le più significative sono il catasto. È previsto che appunto il governo nei prossimi mesi faccia un decreto che servirà a riformare il catasto, quindi ci sarà un metodo completamente nuovo per determinare il valore, diciamo, il valore fiscale degli immobili. Adesso gli immobili vengono, il valore dell'immobile è calcolato sulla base del vano catastale, in futuro si utilizzerà il metro quadro, e poi per ridefinire proprio le rendite, quanto valgono, per renderle più simili, più compatibili ai valori di mercato. Nella delega ci sono tantissime altre cose, quindi il governo avrà la facoltà di intervenire su tantissimi altri argomenti, a partire dalle semplificazioni fiscali, a partire da alcune misure molto importanti per dare, come si dice, certezza del diritto alle imprese, cioè per stabilire bene quali sono le regole fiscali che le imprese devono seguire, per riformato il sistema delle sanzioni, sacco il di roba, insomma. Della, tantissima cosa, tantissima roba, sì. Grazie senatore, c'è bene. Per esempio c'è un ascoltatore, Dominique da Caserta, che dice che Roma fallisca, che impari a gestirsi come tutti i comuni, tecnicismi che confondono il cittadino. In realtà Roma è stata gestita dopo guerra da sindaci, classi dirigenti o classi politiche, che non sempre è stata all'altezza, anche il governo nazionale, insomma, diciamo, varie responsabilità. Grazie Salvatore Padula. Grazie a voi, buonasera. Ciao, buon lavoro. E ringrazio anche Beatrice, la più assidua ascoltatrice. Poi c'è Marco da Torino, che dice anche, si dice preoccupato per il profilo medio, anzi dice, per non dire mediocre, di questa squadra di governo. E poi un ascoltatore o ascoltatrice mi scrive: ti ricordi che avevi detto che la Tares evocava una divinità greca? Me lo ricordo benissimo, insomma, c'è di che sfogare la propria fantasia e immaginazione con tutti questi nomi di tasse, come ci abbiamo detto altre volte. Adesso ci fermiamo con la pausa della pubblicità, poi approfondiamo la questione del lavoro. Vedo che Renzi già annuncia entro 15 giorni sarà definitiva, sarà un po' più delineata questa proposta del Jobs Act. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, sempre Roberta Giordano con voi. Stavo guardando le ultime notizie, ve le ricordo prima di cominciare a parlare di disoccupazione e di possibili soluzioni. La Crimea, avete sentito, invasa da 2000 soldati russi. La Crimea è la penisola a sud filorussa dell'Ucraina. Il presidente ad interim ucraino Turchinov accusa Putin, violato lo spazio aereo, stop alle provocazioni, ma il Cremlino nega. Quindi sale veramente sempre di più la tensione. Poi per quanto riguarda invece le questioni italiane, ci sono state tante novità oggi dal Consiglio dei Ministri, con la via alla Supertasi, al decreto Salva Roma, ed è stata rimossa invece la web tax. Si completa intanto la squadra di governo, 44 sottosegretari, di cui 9 viceministri all'economia, Casero e Morando. Disoccupazione, nei dati dell'Istat, sale al 12,9%, 1 milione di occupati in meno dal 2008, un dato drammatico. Sui giovani senza lavoro il 42,4%, e al sud va anche peggio. E poi sconsigliate dalla Farnesina le vacanze nel Mar Rosso per la situazione difficile anche in Egitto. Quindi vi dicevo, insomma, questi dati estremamente preoccupanti che ha pubblicato l'Istat, si parla di una crescita ulteriore della disoccupazione in Italia al 12,9%, 1 milione di occupati in meno dal 2008, e il dato drammatico riguarda soprattutto i giovani senza lavoro, il 42,4%, come ci confermerà naturalmente Linda Laura Sabbadini, che saluto. Ciao Linda. Ciao, buonasera a tutti. Direttrice del Dipartimento delle Statistiche Sociali dell'Istat. Insomma, spiragli ancora qui non se ne vedono, ogni poco arrivano questi dati e si cresce sempre di più in senso negativo. La situazione del 2013 è stata particolarmente critica perché, come hai detto, 1 milione di occupati in meno circa rispetto all'anno precedente, quindi 1 milione di occupati in meno, scusate, rispetto all'inizio della crisi, però 478.000 rispetto all'anno precedente, che significa molto di più di quanto era successo nel 2009, anno di picco della crisi. E questo è il dato, diciamo, un po' così più critico. Va detto che la caduta dell'occupazione è stata molto maggiore nei primi due trimestri e si è un pochino rallentata nel terzo e nel quarto trimestre, quindi questo è un elemento positivo, considerando anche gennaio, dove il tasso d'occupazione è diminuito di 0,1. Ci confortiamo anche con poco, diciamo. Sì, no, però queste cose le dobbiamo vedere, certo. Sono importanti, soprattutto per le prospettive. Quello che però va detto è che quando analizziamo il record, diciamo, del tasso di disoccupazione, ci dobbiamo sempre ricordare che la disoccupazione va appunto analizzata in concomitanza con l'indicatore d'occupazione, perché in futuro, quando ci sarà la ripresa, e speriamo presto, potremmo anche assistere a un incremento della disoccupazione proprio perché la gente prende fiducia e comincia a cercare attivamente lavoro più di prima. Quindi in che senso, Linda Laura Sabbadini? Cioè, dici, potremmo assistere a qualcosa di positivo perché la gente, invece che scoraggiarsi e non cercare lavoro, comincia a cercare lavoro al di là che ci sia? Cioè, praticamente quello che può succedere, che nel momento in cui le condizioni cambiano, quello che potrà succedere è che magari comincia a crescere l'occupazione in concomitanza anche la disoccupazione, perché più persone al momento scoraggiate, ne abbiamo 1.700.000 nel 2013, che vogliono lavorare, sono disponibili a lavorare, non rientrano tra i disoccupati perché non hanno svolto attività di ricerca attiva e ci dicono che non l'hanno fatto perché tanto non ci sarebbero riusciti, perché la situazione è talmente critica che non valeva la pena neanche provarlo. Quindi in realtà, se ho capito bene, i disoccupati o inoccupati sarebbero molti di più di quelli che risultano ufficialmente? Cioè i disoccupati sono per definizione europea quelli che cercano attivamente lavoro nell'arco delle ultime 4 settimane, questo lo fa tutta Europa e ci confrontiamo con loro, sì. No? E noi siamo al 12,9%. Gli scoraggiati sono una fetta che vuole lavorare, è determinata nel voler lavorare, però non si attiva secondo questa definizione, quindi non può essere conteggiata tra i disoccupati. Certo, quello che va detto è che questo scoraggiamento aumenta proprio nei periodi di crisi, in cui si vede che tutto va negativamente e quindi ci si attiva di meno. Paradossalmente, un domani che le cose cominciano a essere più positive, più persone possono crescere. Era solo un tentativo di dire: attenzione, non pensiamo che il tasso di disoccupazione è la cosa più importante da guardare, dobbiamo guardare ovviamente con un occhio molto vigile all'occupazione. E a questo proposito ci tenevo anche a sottolineare un'altra cosa. Sì. Oltre che il record di caduta di occupazione nel 2013, c'è un altro aspetto, e cioè si accentua la divaricazione tra nord e sud. Il sud è sempre stato, diciamo, più colpito da questa crisi. Già dalla seconda metà del 2008 ha iniziato a perdere occupazione. Poi ne ha persa di più del nord. Tutti l'hanno persa, quindi questo è stata una crisi profonda, trasversale a tutto il paese, però il sud all'inizio perdeva il doppio del nord, adesso siamo arrivati al quadruplo del nord. Accidenti. Cioè, questo vuol dire che la distanza, la disuguaglianza nei territori sta incrementandosi fortemente, quindi diciamo che è un'allerta fondamentale che ci dobbiamo porre anche da un punto di vista così delle politiche, perché ovviamente questa è una situazione critica, così come è una situazione critica quella giovanile. Giovani e adulti fino a 49 anni calano nell'occupazione, mentre gli ultra cinquantenni crescono. e crescono soprattutto perché l'età pensionabile è stata innalzata soprattutto per le donne. Però questo significa che la composizione dei nostri occupati è più invecchiata che in passato e che ovviamente le prospettive per i giovani, come sappiamo, sono particolarmente critiche. E c'è anche Marco che dice, scusami Rina Laura, dice la cosa drammatica è che nessuno parla di disoccupati cinquantenni, finora Renzi si è dimostrato, dice, un gran parolaio e questo lo rende assai poco credibile. Vabbè, Renzi è appena formato il governo da pochi giorni, insomma, diamogli anche tempo. Volevi aggiungere, certo, Linda Laura? Sì. Volevi aggiungere qualcosa? Sì, volevo aggiungere che questa cosa, diciamo, degli ultra cinquantenni è un problema reale sia da un punto di vista dei disoccupati sia da un punto di vista dei cassi integrati. Abbiamo visto, per esempio, che per i cassi integrati ultra cinquantenni la probabilità di cadere in disoccupazione è più alta che non per altre fasce di età. Questo significa delle cose precise, molto più difficili ovviamente, soprattutto poi in questa fase, per un ultra cinquantenne che perde un lavoro, riuscire a reinserirsi. Quindi questi sono ovviamente il numero, in termini numerici questa quota, diciamo, di popolazione è più piccola rispetto alla parte giovanile e anche alle fasce centrali, no? di popolazione, certo. Perché quello che è successo con questa crisi, che abbiamo avuto due ammortizzatori sociali fondamentali, un pochino a protezione. Uno è stata la cassa integrazione, che ha protetto i capi famiglia, soprattutto rispetto alla perdita del lavoro. L'altra è stata la famiglia, che ha protetto i giovani, perché sì, la maggioranza dei giovani che hanno perso il lavoro vivevano ancora nella famiglia di origine. Quindi questo modello italiano del permanere in famiglia in qualche modo ha salvaguardato, ci ha protetto, ha salvato da possibili conseguenze molto più negative. Infatti. Senti Linda Laura Sabatini, ma adesso noi forse troviamo una soluzione, perché sono contenta che sia ospite qui Filippo Taddei. Buonasera. Buonasera. Responsabile economico del PD, docente di economia alla Johns Hopkins University di Bologna. Allora, io vedo varie dichiarazioni, varie agenzie che stanno uscendo, vari flash. Renzi, disoccupazione terrificante, ne usciremo. Renzi dice si guardi Italia con fiducia e con la speranza, e poi entro 15 giorni proposta sul lavoro. Quindi siamo pronti, Taddei? Noi siamo pronti ad affrontare questo problema allucinante, come l'ha definito oggi Renzi, la disoccupazione? Ma proviamo a essere sempre pronti. Ci sono due dati veramente interessanti per me. Innanzitutto confermo che sono in totale accordo con chi mi ha preceduto riguardo al fatto che la variabile importante da osservare è quello del numero di occupati. E poi io metterei un'enfasi su un altro aspetto, che è il deflusso dall'occupazione, cioè i nuovi disoccupati, no? Allora, quello che noi vediamo è che la maggior parte dei nuovi disoccupati sono persone che avevano un contratto a tempo indeterminato, ma una fetta più piccola, però comparabile in termini di ammontare, nell'ordine dei 100, superiore ai 150.000, sono invece persone che non avevano un contratto a tempo indeterminato. Ora, per quanto i due gruppi di persone possano apparire in ammontari comparabili, quelli che avevano un contratto a tempo indeterminato e quelli che non l'avevano, in percentuale, sulla percentuale di persone che avevano un contratto a tempo indeterminato e persone che avevano altro tipo di contratti, noi comunque osserviamo che il deflusso principale avviene da quei lavoratori che non avevano contratti a tempo indeterminato. Questo ci porta naturalmente, sì certo, a ricordarci l'importanza della cassa integrazione, ma anche a riconoscere che i nostri istituti di ammortizzatori sociali, cioè il nostro sostegno alla disoccupazione, è proprio manchevole su quelle categorie che sembrano più esposte in percentuale, e anzi che i dati ci dicono sono più esposte al rischio di disoccupazione e tendono ad essere in percentuale a diventare disoccupati più facilmente. E quindi come lo si affronterà con questo Jobs Act? Se levassi quella S almeno Renzi, già le cose sarebbero più semplici. Ma purtroppo è colpa di Obama, dovete dirlo, Obama di levare la S. Lo so, ma ha detto che tra 15 giorni sarà pronto il Jobs Act, e che tra l'altro a metà marzo lo andrà a presentare alla cancelliera Merkel. Però già i sindacati italiani dicono lo presenti prima noi, prima di andare da un capo di un stato estero a presentarlo. In cosa consisterà? Come affrontiamo questa situazione, Taddei? Ma dunque io vorrei innanzitutto dire che il Jobs Act del Partito Democratico è pronto da qualche settimana naturalmente e che gli eventi, come posso dire solo un attimo, sono accelerati e hanno ritardato quella presentazione. Ora, a questo punto il Partito Democratico ha fatto una scelta attraverso il suo segretario, che è il Presidente del Consiglio, di prendere la responsabilità del governo su se stesso. È stata una scelta chiaramente anche sofferta, anche difficile. E in quell'occasione, quindi a questo punto il Jobs Act diventa un progetto di governo, però ci sono dei punti fermi in questo progetto di governo. C'è innanzitutto l'impegno di avere un ammortizzatore sociale, che va bene, magari non saranno universali, però prendono in considerazione quello che è la realtà del mercato del lavoro, cioè il fatto che noi osserviamo che ci sono categorie più deboli, che non sono solamente regionali o anagraficamente determinate, come diceva prima, ma sono contrattualmente definite, cioè sono lavoratori che hanno certo tipo di contratti che tendono a perdere il lavoro, e quando perdono il lavoro non hanno nessun sostegno. Ora noi questo dobbiamo cambiarlo, e secondo noi questo è fattibile. Ma cos'è l'assegno universale, il sussidio universale? È quello che si dice assegno universale di disoccupazione, dove in realtà l'universale non è ancora arrivato, perché se fosse universale dovremmo coprire tutti i lavoratori autonomi, arrivare a un progetto generale che al momento non siamo in grado di offrire. Però un allargamento sì, cioè allargare le maglie della nostra tutela della disoccupazione, coprire più una platea, allargare la platea di potenziali beneficiari, cioè di lavoratori che se perdono il lavoro sono sostenuti, questo sembra assolutamente necessario. E questa è una possibile misura? Anche alla luce di quello che diciamo. Ecco, con tanti soldi che bisognerà trovare, però al di là di questo... Attenzione, sì. Sui tanti soldi da trovare, però cerchiamo di non spaventare, perché qui ci dobbiamo intendere sui numeri, perché sembra sempre che quando si parla di estendere la tutela della disoccupazione, improvvisamente ci vogliono migliaia di miliardi e improvvisamente la cosa diventa impossibile. Noi quello che abbiamo fatto naturalmente è uno studio un po' più preciso, in cui allarghiamo la platea dei potenziali beneficiari di qualche, secondo noi, fattibile centinaia di migliaia di lavoratori. Non tutti questi diventano disoccupati, per nostra fortuna, ma se lo diventano possono accedere a strumenti, cioè un assegno di disoccupazione a cui oggi non avrebbero ragione. Naturalmente lo facciamo in una maniera che sia fiscalmente compatibile, cioè che sia copribile. Senta, Taddei, ma per rilanciare invece l'occupazione, questo per assistere e salvaguardare chi il lavoro lo perde, ma invece per rilanciare l'occupazione, una misura dentro questo Jobs Act quale potrebbe essere? Come avete sentito, il discorso fondamentale che fa il Presidente del Consiglio è un discorso sulla fiducia in questo Paese. Cioè noi decidiamo come Partito Democratico di riconoscere sì che nella condizione generale, quella che viene catturata dalle statistiche che citavamo, quelle dalla media, di calo, di crescita, che non, ci sono comunque delle eccellenze che sono varie. Ma più che di punti di eccellenza, io vorrei parlare di aree dinamiche. Sono intere aree di questo Paese che sono dinamiche, che sono aree a volte settoriali, geograficamente determinate, che tagliano il paese, perché oramai i settori tagliano le regioni. E quello che vorremmo cercare di offrire a questi settori, che sono i settori ad alto potenziale innovativo e a capacità di creare occupazione, vorremmo cercare di offrire i giusti incentivi affinché si possano crescere, soppiantare il resto del paese, soppiantare quei settori che invece non sono in grado di crescere. E secondo me questo si può fare nel momento in cui gli offriamo uno Stato più amico, una burocrazia che sia a loro servizio e non contro di loro, e una riforma fiscale che sinceramente vada nella direzione di sostenere chi lavora. Ora, io vorrei sottolineare che tutto questo si può fare nel momento in cui noi facciamo un discorso serio sulla spesa pubblica di questo Paese. Perché una delle cose più sorprendenti del nostro dibattito pubblico è che ogni volta che noi parliamo di riduzione della burocrazia ci dimentichiamo che le regole, le procedure sono endogene al sistema, cioè dipendono da come noi decidiamo di spendere i denari pubblici. Quindi il taglio della spesa pubblica, Taddei, abbiamo ancora proprio, mi dicono 30 secondi, mi perdoni, poi avremo voglia tutte le volte che vorrà di... Quindi abbiamo ancora questi 30 secondi. Come ci lasciamo, Taddei? Ci lasciamo dicendo che il Partito Democratico e tutti quelli che in questo Paese, in questo momento di difficoltà, stanno facendo fatica, ma non hanno rinunciato, e che pensano di poter cambiare le cose, che magari le stanno cambiando. Da oggi, o forse da queste settimane, troveranno nel Partito Democratico non solo un alleato, ma un sostenitore. Sostenitore non solo nelle parole, ma nella concretezza dei fatti e dei soldi, soprattutto. È quello che ci auguriamo. Grazie molto, Filippo Taddei. Buon lavoro, quindi. Grazie. Buon lavoro, grazie, grazie a Linda Laura Sabbadini. Adesso devo andare proprio in viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Brevissimamente le notizie. La Crimea invasa da 2000 soldati russi. Il presidente ad interim ucraino Tuchinov accusa Putin, dice che è stato violato lo spazio aereo, stop alle provocazioni. Il Consiglio dei Ministri oggi si è riunito. In Italia arriva la supertasi, via libera al decreto Salva Roma. È stata invece rimossa la web tax e si completa la squadra di governo. Mancavano i sottosegretari e i viceministri, 44 sottosegretari e 9 viceministri. I dati della disoccupazione, abbiamo sentiti, sempre più preoccupanti. Nei dati dell'Istat sale al 12,9%, 1 milione di occupati in meno dal 2008, i giovani senza lavoro il 42,4%. E adesso il nostro appuntamento, come sempre, con l'Europa tutte le sere. Parliamo di una della macro regione ionico-adriatica, nel senso che gli stati non europei si avvicinano all'Europa. All'inizio di febbraio ad Atene si è svolta la conferenza sulla strategia europea per la macro regione ionico-adriatica, a fare il punto sulle possibilità che la macro regione offre e su come incidere anche sui processi di adesione di questi paesi che non fanno ancora parte dell'Unione Europea. Tra questi c'è il Montenegro, che ha avviato i negoziati. Allora sentiamo a colloquio con Valeria De Rosa, il segretario di Stato per l'integrazione europea di Podgorica, Pejovic. Europa 24 notte. Verso le europee. Che valore ha per voi la macroregione? L'obiettivo della macrostrategia dovrebbe essere quello di avvicinare i 4 Stati membri, Italia, Slovenia, Croazia e Grecia, ai 4 Stati che sono in attesa. Montenegro, Albania, Serbia e Bosnia-Erzegovina, per lavorare assieme a un futuro comune, per molte ragioni. La prima è che in questo modo i 4 candidati entrerebbero in Europa attraverso l'aiuto di stati già membri. Il loro aiuto potrebbe fare la differenza in settori come i trasporti, l'ambiente, la pesca e nel raggiungimento in generale degli standard europei. La seconda è che possiamo usare meglio le infrastrutture. Per esempio, Italia e Montenegro stanno portando avanti un progetto di cavo sottomarino che dovrebbe collegare il meridione italiano al Montenegro, aiutandoci così a diventare un hub per l'esportazione dell'energia. Questo è un progetto concreto che può essere a sua volta allargato a tutta la macroregione. Noi non abbiamo sufficiente energia da esportare. Dobbiamo appoggiarci alla Bosnia e alla Serbia, come lo è l'autostrada che, partendo da Trieste, colleghi la costa croata e dalmata, Montenegro, Scuteri, Tirana e Igumenica. Perché volete entrare nell'Unione Europea? Per il Montenegro, una delle ragioni più importanti è che entrando nell'Unione noi torneremmo nella famiglia europea. Una volta ne facevamo parte. Noi non eravamo uno Stato prima del 1900. Abbiamo speso un secolo per cercare di tornare sulla scena internazionale. Diventando membri dell'Unione, saremmo accolti nel club degli Stati più importanti del mondo, il gruppo dei Paesi più sviluppati. Questo può rafforzare tutti i nostri sforzi. D'altro canto, entrando nell'Unione Europea, miglioreremmo i nostri standard di vita e porteremmo gli standard europei da noi, perché l'integrazione richiede le riforme e noi ne abbiamo bisogno. Eravamo un paese socialista. Abbiamo attraversato gli anni 90 tra conflitti civili intorno a noi, anche se noi non eravamo coinvolti. Questa è la migliore occasione, il modo migliore per implementare le riforme, acquisendo le migliori pratiche. È una chance. Non siete spaventati dalla crisi e dall'euro? Per noi l'euro ha portato benefici perché ha stabilizzato la situazione finanziaria e ne ha beneficiato il turismo. La crisi economica europea ha influenzato anche la nostra regione. Ci sono meno investimenti stranieri, meno commercio. Per noi è fondamentale capire come si evolverà, perché i negoziati dureranno più anni. L'Unione nella quale entreremo sarà diversa da quella di oggi. Quindi useremo questi anni per farci trovare pronti quando entreremo nell'Unione. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Bene, eccoci di nuovo insieme, eravamo anche prima naturalmente, ma torniamo a parlare di quello che sta succedendo in Ucraina, o meglio nella regione della Crimea, con Sergio Nava. Ci sono delle novità, Sergio, a proposito di questa invasione? Buonasera soldati. Roberta, non moltissime, se non appunto la conferma che aerei militari russi con a bordo 2000 truppe, si parla di paracadutisti, sono atterrati, ecco, non sono stati paracadutati ma sono atterrati questi aerei con a bordo i paracadutisti in questa base militare nei pressi di Simferopoli nella penisola della Crimea, e c'è anche la dura accusa del presidente ucraino ad interim Turchinov, che ha chiesto al leader russo Vladimir Putin di far cessare questa aggressione non dissimulata in Crimea. Parla di una vera e propria aggressione ormai la presidenza ucraina. La situazione è grave al punto che il Foreign Office britannico ha invitato i cittadini inglesi ad evitare qualsiasi viaggio verso la penisola della Crimea e consiglia ai britannici che si trovano sul posto di lasciare la zona con mezzi commerciali. Già da diverso tempo, da qualche ora, si segnala anche che tutti gli aerei commerciali stanno evitando la penisola della Crimea, questo per dire quanto è alta la tensione in quella zona. Grazie Sergio Nava, insomma anche in questo caso c'è veramente momento, periodo storico in cui si possa stare un po' almeno diciamo nei paraggi un po' più tranquilli al di là appunto di tante parti focolai del mondo, ma adesso distendiamoci un po', pensiamo a problemi ben più piccoli, a come sarà questo fine settimana, le previsioni del colonnello Mario Giuliacci. Colonnello. Sì, buonasera, mi dispiace, tu dici distendiamoci un po', no? No, invece... su nessun fronte. Beh, diciamo che non sarà un bel fine settimana perché è arrivata una perturbazione oggi, domani porterà piogge quasi ovunque, anche un pizzico di inverno sulle regioni di nord-ovest, in particolare sul Piemonte, perché qui tra freddo addirittura scenderà la neve anche sul Conese, sull'Alessandrino, l'entroterra ligure. Poi domenica la stessa perturbazione ancora porterà piogge su gran parte d'Italia al mattino, bello sulle regioni di nord-ovest al mattino, al pomeriggio bello su tutto il nord, ancora insistono le piogge al centro-sud. Domenica temperature in rialzo, specie su Piemonte e Lombardia, dove appunto domani farà un po' freddino. Poi la prossima settimana inizierà con un'altra perturbazione che ci terrà compagnia fino a giovedì, ma di questo avrete modo di acculturarvi sui nostri siti, in particolare sul mio www.giuliacci.it. Molto bene, grazie colonnello Giuliacci, buon tempo a te comunque sia. Grazie. Ciao colonnello, vedo ancora tanti vostri messaggi, per esempio Daniele dice passerò per renziano ma io ci credo, massima fiducia a Renzi, molti altri invece dubbiosi, qualcuno dice traducetemi Dave, cercavo di fargli dire concretamente cosa faranno, evidentemente lo presenteranno tra 15 giorni, speriamo sia più chiaro. Noi ci risentiamo tra pochi istanti per le notizie principali.